cosa mi conviene, l'altra proprio non mi va. Questa storia di catene a me non va. Io non mi piego, non ci sto, non mi ispiro a nessuno, anche se fosse è un'idea. Sempre a caccia del clamore, è una cosa.